Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, è Stefano Dainese che vi parla. Lunedì sera, Rock Wave Live, come ha detto la nostra sigla, appuntamento con la musica dal vivo, qui sulla nostra emittente, già Agostino che è in questo momento alla regia ha anticipato l'ospite di questa sera, che poi in realtà sono degli ospiti, ma insomma la front woman è Arianna Antinori, alla quale do il benvenuto. Grazie, ciao. E insieme a lei ci sono i due chitarristi Giovanni De Reut e Davide Repele e Chiara Rolfe. Bolfe, scusa, l'ho scritto anche, l'avevo anche scritto. Loro sono componenti fissi della tua band. I chitarristi sì, e Chiara diciamo che sarà sicuramente la futura corista della band. No, ma lei già è una cantante, lei è una cantante molto brava, quindi sì, adesso vedremo. Annunciamo subito che per questa serata Arianna e i suoi musicisti hanno riarrangiato dei pezzi in chiave acustica, perché normalmente sono piuttosto rumorosi, diciamo. Ma sì, ci sono molti strumenti, sì. E le chitarre sì. Sono elettriche, naturalmente. E le chitarre sono elettriche, sì. Però abbiamo, diciamo, delle limitazioni logistiche, per cui questa sera faranno, insomma, io sto qua solo a guardare, faranno una versione unplugged. Naturalmente poi ascolteremo una selezione di brani dal disco di Arianna, che è uscito alcuni mesi fa e sta uscendo di nuovo. Mettiamola così, giusto? Sì, diciamo che con un CD se ne fanno due, nel senso che sì, questo è uscito a dicembre, e una versione di 1000 copie non masterizzate. Adesso diciamo è in preparazione la seconda ristampa, la seconda stampa masterizzata invece. Quindi è una grossa differenza, magari poi ne parliamo. Io direi di ascoltare un brano intanto, così chi non ti conosce si fa un'idea di cosa fai. Diciamo subito che i pezzi che sentiamo questa sera sono con la nuova masterizzazione, quindi quelli sì, che saranno sì. Disponibili, anche perché la versione originale del disco è stata esaurita, e quindi sì, pochissime anche copie volendo ancora. Sì. E poi magari uscirà anche il vinile. Sì, è in preparazione, infatti questo disco è stato fatto proprio in visione del vinile. Sì. Bene, allora ci ascoltiamo questo brano che si intitola I Give, è Arianna Antinori dall'album che porta il suo nome. You Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. E questa era I Give, che apre l'album. E dicevamo appunto di questa cosa della scelta artistica di non effettuare la masterizzazione. Adesso la masterizzazione in pratica consiste nel appiattire tutte le dinamiche duro lavoro di mixaggio di un disco. Sì, magari qualcun altro direbbe diversamente, dice che serve a far suonare il disco più forte, no? Sì. Cioè praticamente è come se si piallasse tutto quanto e il livello del volume è diventato più alto di quelli che si ascoltano anche una volta. Se tu metti un disco di una volta senti che... Un vinile, risulta... per intenderci. Sì. Infatti ecco, le prime 1000 copie del disco di Arianna hanno questa caratteristica che le differenzia da qualsiasi CD che potete comprare, appunto, quando, l'ho detto anche delle volte trasmettendolo qua in radio, per trasmetterlo dovevo modificare un sacco di regolazioni qui sui nostri apparecchi, perché altrimenti il volume era veramente bassissimo rispetto a quello degli altri CD. Però quando si alza, quando si ha la possibilità magari di metterlo su un impianto che abbia un po' di kick, come si dice in gergo, di spinta, il suono è molto caldo, è molto, molto da vinile, diciamo. Sì. Questa era una vecchia polemica, mi ricordo Neil Young era stato forse il più forte sostenitore del vinile quando comprò una pagina su Rolling Stone chiedendo alla gente di non comprare le versioni in CD dei suoi album. Sì, è vero, sì. Perché ha detto che suonavano malissimo. Però adesso appunto la nuova versione, ti sei un po' adattata. No, nel senso che questo è il mio disco, è tutto autoprodotto, quindi ho voluto fare quello che volevo io. Siccome che comunque anche radiofonicamente non va bene, perché non va bene, e comunque se venisse mai un'etichetta, una casa discografica, lo masterizzerebbero, cioè lo farebbero loro, e allora ho deciso di farlo io, così che ho anche mixato in maniera diversa alcune canzoni, ci sono delle cose diverse anche, abbiamo tolto dei pezzi di voce, abbiamo messo dei pezzi in più di pianoforte in alcune canzoni, quindi è anche un po' proprio diverso. Però ho voluto sempre decidere io, quindi eventualmente vendere un pacchetto già perfetto, ecco, le idee molto chiare, insomma. E poi appunto ci sarà il vinile che riporta poi le cose al suo posto per chi cerca quel tipo di suono più caldo, diciamo. Allora, diciamo, non ti abbiamo presentato, ma insomma, brevemente, Arianna, sei nata a Velletri, giusto? Nata a Roma. A Roma, è cresciuta a Velletri. Sì. Poi sei finita a Vicenza, come. Nel 96. Un po' un bel cambio di atmosfera, diciamo. E da quanti anni è che canti tu? Da quando eri bambina, immagino. Sì, non mi ricordo il momento che ho iniziato a cantare, perché c'è mio papà che è un cantautore musicista, quindi ha sempre suonato. Cioè cantare per me era normalissimo. Immagino che per tuo papà scoprire che sua figlia aveva una voce del genere si sarà ubriacato dalla felicità. No, beh, sì, lui è contentissimo. Sì. Non è che lo puoi creare geneticamente, devi avere la fortuna di nascere. Sì, lui mi ha sempre portato, vedendo i suoi gusti, su un cantautorato italiano, no? Perché lui fa musica italiana, melodica. Però poi io ho trovato la mia strada e quindi anche lui è rimasto un po' sconvolto da cose che io da sola sono riuscita a fare, perché poi i miei si sono separati, quindi lui è andato ad abitare via. Quindi mi ha lasciato, facevamo le canzoni melodiche o comunque psicadelia di Pink Floyd, Rolling Stone, eccetera. Però io mi sono creata, grazie anche a Joe, che mi ha dato veramente una cultura, cioè ha incrementato la mia cultura musicale a livello veramente esponenziale, mi ha fatto conoscere degli artisti grandissimi, e quindi sono diventata quello che volevo io, insomma. E per molti anni hai fatto cover, come tantissimi altri, certo, insomma, sì. In modo più facile per cominciare. Però quando hai deciso di fare un disco, avevi ben in chiaro in testa che le canzoni sarebbero state tutte inediti? Sì, è stata veramente una bella sfida, perché... Ma è un po' strana come cosa, comunque... Si inizia strimpellando la chitarra, poi quando ascolti i grandi della musica e dici, ah, ok, Quindi è giusto suonare le loro canzoni perché si apprende da loro, cioè si ha una base molto più solida perché decidi tu i gusti, eccetera. Però poi è normale che bisogna mettersi alla prova e trovare, cioè esternare quello che si ha, trovare il modo almeno di provare. E quindi è stata una bella sfida, insomma, cantare degli inediti e sapere che in quel caso era proprio la mia voce che doveva uscire fuori. Questo significava anche fare un salto nelle tue esibizioni dal vivo, perché se suoni cover c'è un certo circuito, diciamo, di sì, locali, di feste, di cose in cui sì, cercano solo queste cose qua, sì, mentre invece nel momento in cui cominci a proporre il tuo repertorio, certo, anche da quel punto di vista, deve essere sì, una bella sfida sicuramente. No, però soddisfazioni, perché ci sono dei locali o comunque più che altro degli organizzatori che vorrebbero il disco, però non è, a volte non è fattibile perché il costo è molto grande, perché la band siamo 10 elementi per avere il disco, sì. Però allora andiamo con i Turtle Blues in sezione ridotta, però vedo che proprio, anzi, è una soddisfazione. Ma fai anche le canzoni tue, vero? Oltre alle cover. Sì, sì. Di solito la domanda è sì, l'opposto. ma perché ormai a me mi conoscono per le cover, quindi... Infatti, appunto... Sì. Va bene, cosa dici? Potete cominciare a intrattenerci? Facciamo una canzoncina da live? Ok. Una canzoncina. Allora, direi di continuare, cioè di iniziare con la cover, visto che ci ha dato i Natali a tutti. Ok. Facciamo una cover dei Beatles, Oh Darling. Allora ci ascoltiamo questa versione di Oh Darling da Arianna Antinori dal vivo. Oh darling, please believe me, I will never do you no harm. Believe me when I tell you, baby, don't ever leave me no harm. direi che nel repertorio dei Beatles hai scelto una canzone che ti si adatta perfettamente. Non so se sai la storia di questa canzone. Paul McCartney la incise, la traccia vocale da solo di notte e la cantò una dozzina di volte di seguito finché la voce gli divenne proprio rock, perché in effetti la canta con una voce che è abbastanza strana per lui, perché proprio voleva essere così rozzo, rude, un po' cartavetrato, un tipo di vocalità che non sarebbe proprio nelle sue. E disse che poi per 2 giorni non poté più cantare Dai. perché si era distrutto la gola per farsa. Aneddoti da vecchio Beatle fan come sono, insomma. E qui io devo dire questa cosa. Alessandro Pedro Parin ti saluta e Oh. dice che è innamorato di te. Io lo. Ciao Ale. Ok. Io riferisco, ecco. Alessandro, scusa, ridimmi il nome. Pedro Parin, non c'è il È numero di telefono, Pedro. però. Ah, sì. Oh. Ok. Allora, abbiamo parlato prima, appunto, dicevi del fatto che per fare il disco hai bisogno della band completa di 10 Non è persone, che ho bisogno, però insomma, per farlo, diciamo, a regola a regola d'arte, ecco. d'arte. Però vedo che, al di là, appunto, della band allargata o meno, tu stai lavorando in maniera folle, veramente hai preso il posto di James Brown, che diceva di essere the hardest working man in the showbiz. Adesso ci sei tu al posto suo, che suoni continuamente Sì, davvero. è un peccato che il mese abbia pochi sabati, dopo pochi venerdì sabati. No, veramente, sarebbe. Sì, insomma, sono veramente felice e purtroppo non riesco a starci dietro a tutto e questo veramente. Sto male a volte perché non riesco a rispondere, sto male perché. Sì. Sì, ma è chiaro, cioè, non hai il dono dell'ubiquità, quindi devi avere delle priorità. Volevamo ricordare, c'è una data a Padova, Sì, domenica sera domenica al sera, Beat. all'interno della manifestazione Sì, Bacchiglione Beat, sì, sì. che insomma ormai è un'istituzione a Padova, saranno più di 10 anni sicuramente che ha luogo. Tu hai anche degli amici qua a Padova, diciamo, musicisti. Tanti, sì, tanta gente mi vuole bene, ma siamo ospiti di Maurizio Boldrin. Ok, nel Sì, mitico Maurizio sì, Boldrin, sì, sì, sì. un Un'istituzione, monumento mamma della mia, musica qui a un Padova, grande, sì. Sì, con cui hai suonato già altre volte, giusto? ho avuto la fortuna di suonare al Fish Market di Padova. 2 volte, anche 3 forse. Dunque, andiamo con un altro pezzo dal disco, così Sì, evitiamo di certo. fare discorsi troppo lunghi e rischiamo di tralasciare la musica. Questo brano si intitola Freedom, e vabbè, poi parleremo di come hai fatto il disco e dei collaboratori che ti hanno aiutato, che Sì. sono veramente straordinari. Allora, intanto ci ascoltiamo questa Freedom dall'album di Arianna Antinori. Freedom, feel is lead to your freedom. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, siamo qui a Blu Radio Veneto, naturalmente, con Arianna Antinori, nostra ospite, insieme a Giovanni De Reuter, Davide Repele e Chiara Bolfe. Ho detto giusto stavolta. Parliamo del disco. Allora, il disco, ecco, qui vedo che hai scritto bello in grande: "This record is not mastered, true genuine dynamic", quello che avevamo detto prima. È prodotto da Jean-Charles Carbone e Marco Fasolo, che poi suonano, vedo, tutti gli strumenti. Sì, hanno fatto loro il disco praticamente. Una cosa impressionante, veramente, suonano di tutto. Loro però non suonano con te normalmente. Suonano in questo progetto qui, sì. Ma normalmente sì. No. Marco Fasolo ha una carriera, diciamo, sì, molto importante per conto suo. Jean-Charles Carbone, un po' difficile da pronunciare. Jean-Charles Carbone, Carbone, ma sì. È francese? Sì. Quindi sarebbe Carbone? No, oddio no, so che... metà italiano e metà francese. Adesso, ora bisognerebbe chiedere. Sicuramente so in Francia lo chiamano Carbonet. Scarbonesi, sicuramente. Non so se è il padre o la mamma francese. Adesso no. Ma com'è che li hai conosciuti e come hai deciso di fare il disco con loro? Cioè, c'è un... Beh, allora, abbiamo conosciuto Jean-Charles Carbone anni fa, quando siamo andati a registrare con la band di Turtle Blues un demo nello studio dell'Abnegart Records. E da lì ci siamo stati simpatici e ci siamo conosciuti. Però poi finito lì il discorso. E proprio nel 2012 mio papà ha contattato uno studio di registrazione preso sull'elenco a caso per farmi registrare Gone, perché io non riuscivo mai ad andare su in Germania. Lui ha un piccolo studio vintage dove abita, però non riuscivo mai ad andarci su. Quindi volevi fare un pezzo? Volevi fare un pezzo, dovevo registrare. E casualmente ha preso Abnegat. A trovare. E quando ha chiamato, ma io conosco Arianna, siamo amici, ah, ma dai. E da lì ci siamo rivisti, Jean. E logicamente io sono cresciuta, anche sono maturata anche un po' con la voce, eccetera. E quindi Jean, quando ho registrato questo pezzo, mi ha proposto di provare a fare un disco, perché secondo lui i tempi erano maturi. E aveva conosciuto anche Marco Fasolo, che stavano facendo un disco insieme. Ha detto: devo farti conoscere questa persona, perché secondo me noi insieme faremo qualcosa di figo, proviamo. E in più un altro ragazzo, Manuele De Pretto, che ha disegnato la copertina del disco e ha fatto Our Days, I See You. Quindi è stato questo quartetto di menti un po' diverse, un po' strane, un po' che ci siamo chiusi 2 mesi e mezzo in studio, 14 ore al giorno, creato le canzoni, le suonate, cioè proprio vissute, scritte, abbiamo fatto un vestito proprio. È stato, sì, perché bellissimo. Loro ti hanno ricreato un suono, diciamo, un po' anni 70. Beh, se ti racconto, non ci credi. Evitando qualsiasi suono sintetico. Tutto veramente fatto a mano. La batteria è stata, cioè, praticamente sono stati messi su nel piano superiore i microfoni, e il reamp è stato fatto con l'ego della casa vuota. Cioè, proprio come si faceva una volta, Led Zeppelin. Sì, non col batterista chiuso in una scatola di plexiglass, no. E microfonato in 10 punti diversi e poi il suono ricreato. Tutto... Adesso si fa così normalmente, no? No. Tutto veramente vintage, tutto proprio originale. Sono stati veramente bravi, perché appunto, insomma, io conosco un po' di dischi anche, diciamo, degli anni passati, e questo tipo di suono non è facile da ricreare adesso, perché appunto mancano anche le possibilità tecniche, nel senso che tutto è digitalizzato, e quindi infatti loro hanno tutto proprio vintage, tutta roba analogica. Gelosamente assolutamente conservata, sì. E restaurata per... si sente proprio il profumo quando entri dentro quello studio. Benissimo, vabbè, in effetti poi il risultato si sente. Ti facciamo alzi? Un'altra canzoncina? Ok, facciamo un pezzo della mia, sì. Facciamo i See You. Cosa dite, ragazzi? Va bene, il pezzo l'hai già annunciato te, quindi io non devo fare altro che ascoltarvi. Hey, See You. I see you even now. I'm so close to you. So close to you. I see you in the night. I do talk to you. Impressionante questa versione dal vivo, non mi ricordo il titolo della canzone, sono talmente... I see you, scusa, appunto da Arianna Antinori e i suoi musicisti. And Friends, bravi, yeah! And Friends. C'è un tuo parente, penso Walter Antinori. Eccolo, è il babbo. Il babbo, salutiamo tutti. È il babbo, ciao babbo. Il babbo. From München. François Fly, non so. Guarda, c'è François. Lo conosci? Grande, sì, è una bella pischella. Ah, è una ragazza? Sì. Perché, va bene, come è scritto qui... Francesco Favero e Valeria... Vintage Factory Lab. Wow, grandi ragazzi, fedeli. Tutta gente che è all'ascolto o in streaming sul nostro sito bluradioveneto.it. Hai detto appunto di come è stato curato tutto il disco. Io noto che la stessa cura è stata fatta anche sulla parte grafica. Assolutamente. Come sì. Si usava una volta. Insomma, infatti anche. Fra l'altro, ecco, hai studiato una copertina che anche sul CD fa il suo effetto. Non sembra una cosa rimpicciolita. Naturalmente sulla versione in vinile sarà più bella. Però dà molto l'idea di quello che sei, questa copertina. Adesso non cerco di definirla, di descriverla, magari chi è curioso può trovarla su internet, insomma si vede dappertutto. È stato... Però... Sì, ma sono veramente orgogliosa di quel logo perché proprio mi rispecchio. E è stato geniale il ragazzo Emanuele De Pretto che ha fatto la canzone che abbiamo appena suonato. Perché... Quindi è uno che fa musica. Sì, e sì, è un cantautore. Grafica. Assolutamente, fa parte anche di un gruppo che sta nascendo adesso. Hanno anche un CD di italiano, grunge rock psichedelico, veramente forti. 100 giorni da pecora si chiamano. Bene, e... magari li faremo venire. Sì, sì, 100, sì. Giorni, da 100 giorni da pecora si chiamano. Sì, sì. Notevole. Che fa parte anche il mio produttore Jean-Charles Carbone, che suona il basso in questo gruppo. Beh, penso che ci possa un gruppo che si può ascoltare a occhi chiusi, visto la qualità dei personaggi coinvolti. Siccome ti piacerebbero. Ma, e quindi sì, no, gli avevo detto dammi una mano, vediamo cosa si riesce a fare. Io vorrei tre robe: il cerchio, l'albero e la luna. Anzi, quattro, ho detto, è una donna che ci balla intorno all'albero, no? Beh, il movimento. Praticamente mi ha fatto a me come albero che mi stacco da per terra e con la luna. È vero che qualcuno se l'è tatuato? Sta... Due persone. no. Beh, no. C'è la mia super friend Miriam Magrini, cioè metà, tutta la coscia. Si è tatuata la copertina, sì, del tuo, del 20, tuo disco. 20x20. Sì, sì. E un altro ragazzo sulla spalla. Sì, veramente cose che colpiscono abbastanza, insomma. Sì, no, mi hanno anche lasciato un po', perché ho detto wow, minchia, devo stare attento come mi comporto, perché cioè no, sì, è una responsabilità, Ormai è fatto il tatuaggio, è indelebile, per sì, cui sì, no, ma anche, anche l'affetto e l'amicizia che ci lega, quindi sicuramente sì, sì. È una cosa che non ho mai sentito. Oddio, ma sì, ho visto gente con tatuato, che so, Jim Morrison o cose del genere, però Marianna Antinori mai, però no, ma nel senso che anche a me il fatto è che in quei casi là non si sa mai se uno è veramente attratto, diciamo, dalla musica, o se considera Jim Morrison solo per il simbolo di quello. È come con Che Guevara, no? Che hanno l'immagine di Che Guevara, poi se gli chiedi cosa ha fatto Che Guevara, rispondono: beh, è uno che ha fatto il guerrigliero da qualche parte. Allora, così come Jim Morrison, insomma, è un personaggio che ha molte sfaccettature, quindi sicuramente uno che si fa il tatuaggio di te sa esattamente cosa vuole. Sì, c'è proprio tanto affetto, sì, veramente. Sicuramente. Adesso ci ascoltiamo un altro brano dall'album. Questo è un pezzo lento, che si intitola For My Friend, sì. Per il mio amico. È rivolto a qualcuno in particolare? No, l'amicizia in generale, l'amicizia. Che è un sentimento a volte anche più forte dell'amore tra uomo e donna. È proprio un sentimento fortissimo. Bene, allora ce l'ascoltiamo questa For My Friend, sempre da Arianna Antinori, dal suo album. For my friend, I keep myself in the storms and in the rain. For my friend, across the borders in the night. For my friend, I throw my money, even when there is nothing, nothing to eat. Sometimes we fall, and sometimes anything. SMS 346 2320 033. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mi intrometto un attimo, Stefano, perché faccio prima a leggerlo che non a scriverlo il messaggio, perché è stupendo. François Flea dice: Hello Blu Radio, Arianna, una ragazza straordinaria, un gran talento e con una grande anima. Anche se lei non parla, lo si capisce dallo sguardo, e quando canta esce tutta la sua anima. Il suo disco deve girare anche per educare tante orecchie sorde che circolano oggi. Parola di una vintage. Un abbraccio mega a lei e a voi, François. Grazie. Stai quasi arrossendo. Wow, eh? Sì, sì, sotto sotto Arianna è timidissima. Sì, queste cose non, mi non nascondi bene. Però. Grazie, cara, grazie Agostino di aver dato voce a queste meglio, parole. Meglio leggerlo che scrivere. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato era For My Friend. E, vi ricordo, siete sintonizzati su Blu Radio Veneto. Siamo in studio con Arianna Antinori e la sua, una fetta della sua band. Che a questo punto mi stava spiegando prima: è una band flessibile come la fisarmonica, cioè la, sì, la allarghi, la restringi a seconda delle esigenze artistiche e logistiche. Sì. Sì, sì. Quindi questo significa anche che se uno ti viene a vedere, che so, tre o quattro volte in un mese, può avere la sorpresa. Vede tre o quattro spettacoli diversi, giusto? Sì, sì, sempre. Un po' quello di, sì. Un po' di sano marketing, no? Così. No, anche perché sì, tu hai un repertorio che va al di là, diciamo, del tuo album, naturalmente, come dicevamo prima, ma... Quanti brani hai in repertorio complessivamente? Li hai contati? O... Allora, te ne avrei tanti, ma il problema è che purtroppo abbiamo ho tanti componenti, ho quattro bassisti, tre batteristi, e quindi purtroppo a volte non abbiamo molto tempo di far prove, quindi ci ritroviamo sempre a fare le stesse, diciamo, se cambia qualche canzone, però ne avremo una sessantina almeno, anche, cioè che 30 sicure da scegliere. Poi una sessantina, ma forse... Sì, 30 che le sanno tutti, ecco. Bravo. poi ci rigiriamo, però insomma ne sappiamo tanto. Quindi quelle 30 lì potresti anche farle, che so, un giorno, se vuoi chiamare tutti e quattro i bassisti e i tre batteristi. Sì, infatti. Fai una cosa che sì, indimenticabile. Che ci serve uno stadio, però solo però a modi no, uno stadio però solo come palco. Ah, come palco. Perché sono troppi. Arianna la conoscono tutti, questo ecco, bisogna dirlo. Hai un giro, a parte ho visto anche su Facebook, hai 15.000 amici. No, 5.000. Sono full, mi si è bloccato anche l'altro profilo, sono disperata. Nel senso che non sapevo questa cosa. Eh sì, Facebook ha un limite di 5.000 persone, quindi lo scopro ora. E quindi cosa fai? Devi fare una decimazione? O... A volte capita che decimo qualcuno, sì, che qualcuno è, però ho aperto un altro profilo. Adesso c'è un fan club che mi ha fatto Miriam, la ragazza che si è fatta il tatuaggio, insieme a Laura Zanella. Hanno fatto un fan club per aiutarmi, perché a volte mi scrivono i messaggi che vorrebbero diventare amici. Ho fatto sì, perché mi vogliono seguire per sapere dove sono, però non è possibile. Poi mi dispiace anche cancellare gente, perché insomma... Sì, beh, capisco. Non sapevo ci fosse questa limitazione. Sì, ho visto che da qua alla fine dell'estate hai 40-50 concerti. Parecchi, sì. Non li ho contati, ma sì, parecchi. Devo anche aggiornarla. Bene. No, sono molto sono veramente contentissima. Sì, sì, no, sono contenta. Si parla tanto, sì, di disoccupazione, almeno c'è qualcuno che lavora tanto. Sono contenta, sì, sì. Veramente, beh, sono proprio contento per te, perché meriti assolutamente. Grazie, grazie. Io ho visto un tuo video in cui facevi un brano di Patti Smith. Gloria, sì. Free Money. No, Gloria, che è praticamente di Van Morrison, rifatta, sì, la versione di Patti Smith, sì. Lei è una delle tue ispirazioni? Sì, le donne, perché, del rock. Sì, vabbè, le donne del rock. No, perché poi tutte le volte si parla di te i nomi sono sempre gli stessi, no? Cioè si casca sempre lì. Però io sento una maggiore varietà, ecco, sarà appunto, soprattutto nel disco. Tu prima hai citato i Led Zeppelin. La tua vocalità mi ricorda molto quella di Robert Plant, che è un po' assurdo perché Robert Plant sarebbe un maschietto, insomma, però sì, era uno che andava molto su con la voce comunque. Sì, sì. A me mi diverto, mi piace le Zeppelin, sì. Ma io cerco di attingere, di prendere un po' da tutti, cioè ogni persona ha una voce unica e ripetibile, però gli insegnamenti delle altre, ascolti, fai, quindi... Ah. Sì, Agostino ha fatto partire le Zeppelin, non me l'aspettavo in cuffia, me li sono sentiti così di colpo, sono stato aggredito da Jimmy Page. E adesso mi pare di aver capito che farete un'altra cover. Sì, la penultima canzone, sì. Ed è una cover di... della grande Janis Joplin. Ok, abbiamo detto il nome di Janis Joplin, che... ti perseguita e allo stesso tempo ti... No, è perché il fatto appunto che vedo anche nelle recensioni del disco è molto facile per il giornalista cadere sempre lì. Beh, per me è un onore, prima di tutto, perché insomma, però sì, forse sì, appunto c'è questa somiglianza magari nella... Boh, forse nella forza, nella potenza, non lo so, ma insomma Janis, ecco. Va bene, quello è chiaro. Tra l'altro nel tuo disco, possiamo dirlo, insomma, c'è una canzone che lei scrisse. E che non cantò mai, quindi è proprio così. Il testo, naturalmente, scrisse lei. E che tu hai avuto dalla sua, da chi gestisce dal la batterista, sua eredità. Sì, praticamente il batterista di Janis se l'è trovata... a casa. C'è stata una grande lotta tra la famiglia di Janis e il batterista, perché volevano insomma che fosse della famiglia di Janis, e invece lui ha deciso, e quindi hanno fatto metà, e quindi sono tutti felici. Io sono la seconda al mondo che ha avuto la... Insomma, ecco, insomma, guarda, già mi emoziono, perché insomma ogni volta che parlo di questa canzone mi... È un segno di rispetto nei tuoi confronti, soprattutto, prima ancora che di ammirazione, perché ti ha dato un qualcosa che per lui aveva sicuramente un significato. Eh beh, sì, sì. Poi Katie McDonald è stata la prima a cantare, che poi è venuta a mancare il giorno prima dell'anniversario di Janis. Ah, questo sapevi? Non lo sapevo, sì. No. Sì, sì. Katie McDonald, che è stata la corista di Rolling Stone, Joe Cocker, cioè. Sì, sì, sì. Non sapevo di questa... L'anniversario di Janis il 4 ottobre e lei è morta il 3 ottobre. Una coincidenza un po' da brividi, diciamo. Infatti io dovevo registrare la canzone come l'aveva fatta lei, però ho detto di no, perché doveva rimanere sua. Quella versione doveva rimanere sua. E quindi abbiamo fatta voce, pianoforte, completamente diversa da quell'altra. Giustamente, direi. Hai fatto bene. Allora adesso ci canti Piece of My Heart? Yes! Ok, allora questo classico di Janis Joplin nella versione di Arianna. Buon ascolto a tutti. Come on, come on, come on. Questi che avete sentito sono i braccialetti di Arianna. Che fanno da percussioni. Piece of My Heart, un pezzo leggendario. Sì. Diciamo che questi sono pezzi che tu hai dentro, insomma, hai suonato, hai cantato tante volte. E penso che forse anche più di Janis, perché facendo il conto. Lei poverina, purtroppo non ha. Cioè, non noi ha che potuto... facciamo le sue cover, penso sì. Oddio, in effetti. Penso sì, è vero. Soprattutto i pezzi della parte finale, diciamo, della sua carriera, lei sì. Non ha avuto molte occasioni di cantarli, purtroppo. Tu però hai potuto cantarli anche con i Big Brother and the Holding Company. Sì. Questa deve essere stata un'avventura di quelle, non so, riuscivi a non essere tranquilla quando cantavi con i musicisti che eseguirono all'inizio questi brani, quando erano nuovi, quando erano a Woodstock? A Woodstock soltanto Sam Andrews c'è stato, perché c'era già Janis, era già con l'altra band. Però io ho organizzato un concerto, ho organizzato la venuta loro in Italia nel 2010, e l'avere organizzato tutto, ho fatto tutto, ho perso 10 kg in un mese. C'è testimone, lui ero. Non dormivo di notte. Beh, perché parlavo con gli americani. Ci saranno un sacco di ragazze che vorranno organizzare una tournée. Infatti, sì. Tutti quanti. Per perdere 10 kg, insomma. No, per dire che c'è stato così tanto da fare che io mi sono resa conto realmente sul palco, senza neanche il soundcheck, senza prove. Io ho organizzato tutto. Non avete fatto il soundcheck? Io non ce l'ho fatta, perché dovevo organizzare, perché ero io quella che faceva tutto, quindi organizzati qua e di là. Loro hanno fatto il soundcheck, ho fatto dopo arrivo, e invece no, ho provato soltanto un attimo un microfono così. E quindi proprio sul palco, proprio con quasi 1000 persone, c'è stato... E questi avevano pensato che eri pazza, furiosa? Sì, sì, mi hanno detto che sei la quintessenza. Mi hanno detto che non ho mai visto una... cioè far tutto. Tutto. E poi sono andato in tour con loro, quindi ho fatto da autista, da venditrice. Da autista? Certo, tutto, un factotum. No, mi sono divertita. Io e Antea Salmasi siamo divertite. Sì, beh, immagino che sia divertita, però fare che la cantante faccia anche l'autista, credo che sia la prima volta della storia del rock and roll. Perché la cosa bella è che tu mi vedevi cantare sul palco, scendevo di corsa e andavo a vendere le magliette. E chiedevano anche l'autografo di me, quindi ne vedevo ancora di più. Vabbè, no, è stata un'avventura stupenda. Ma guidare no. Ho fatto di tutto, è stato bellissimo. Non mi fa, cioè, proprio paura zero, nel senso dovevo bisognava farlo. Ti sei buttata, insomma. Sì. Fantastico, veramente. C'è qualche possibilità che questo succeda nuovamente? Sì, sto organizzando una cosa enorme. Non dico niente. Ok, allora con questa suspense va bene, ma ce lo annunceremo. Sì, ce l'annuncerai. Sì. Okay. Se vuoi portarli qua, sono i benvenuti. Benissimo, dai, organizziamo. Allora ci ascoltiamo un altro estratto dall'album. Questo si intitola Shut Up, stai zitto. È un pezzo un po' si stacca un po' dal resto dell'album, anche come testo. Sì. Pare che te la prendi. Che poi, ecco, i testi non li hai scritti tu. Sono discorsi che facevo io con loro e loro li hanno portati. No, vabbè, è un insieme, sì. È un insieme di quello discorsi. Quello che pensavo, appunto, siccome visto che tu dovevi cantarli, è importante. Assolutamente, anche che fossi sì. Coinvolta nella parte certo. Testuale. No, sì, proprio sono stati anche fatti da me, anche se non c'è scritto il nome, ma sono cose che le ho vissute, le ho pensate. Condividi, diciamo. Sì, logicamente, sono i miei limiti, quindi scrivere ancora non. Quindi lo faccio fare a chi è capace. Però do le mie idee. L'input. Bene, allora ci ascoltiamo questa Shut Up. Shut up. And your friend is so I must shut up. Cause if I went home senza sarà. Io se ciò vuoi senza luce sarà. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questa era Shut Up, che è, diciamo, all'interno del disco è la canzoncina, diciamo, sì, quella più orecchiabile. Però stavi dicendo adesso Ariana che in realtà c'è sotto un lavoro di produzione spaventoso. Sì, sembra una canzoncina, ma è una canzoncina, diciamo, che è la più, tra virgolette, commerciale. Però sì, ci sono 97 tracce di strumenti qui dentro. Sono pazzi. Se uno fa attenzione alla parte del ritornello, si possono sentire, c'è di tutto, c'è una sirena dentro, c'è di tutto. Hanno voluto fare una cosa un po' come facevano i Beatles. Sì, infatti ci rilassavamo le orecchie con i Beatles quando dovevamo staccare. Sì, c'è il Beatles a go-go. Quindi certi suoni, certi concetti produttivi sono anche frutto di questa, di questi ascolti. E, adesso il disco è uscito a dicembre, dicevi, quindi è un po' presto per parlare, ma non sarà un episodio isolato. Immagino che la tua prospettiva futura sia di fare qualche altro album, giusto? Non c'è ancora... Sì, certo, però non... Sì, ben venga, però insomma adesso dobbiamo dare spazio a questo. Sì, perché il disco è autoprodotto. A proposito, questa è una cosa importante, sì. Per chi volesse comprarlo, sì, adesso verrà ridistribuito con la seconda ristampa. Si può comprare via internet, immagino. Sì, adesso ci sono delle cose in ballo che presto, che comunque durante le... cioè adesso in estate ci sono delle cose da pianificare, quindi sì, ci saranno delle novità. Potresti avere anche un'etichetta, diciamo, una distribuzione? Sì, potrebbe essere, sì. No, perché insomma sei riuscita a vendere 1000 copie ai concerti fondamentalmente. Poi ci sono c'è qualche negozio tipo il 23 sì, Dischi qua, sì, di sì, Padova, naturalmente, che ne aveva, ma insomma era una distribuzione artigianale, posso dirlo? Certo, sì, sono diventata proprio amica per la pelle con la signorina della posta. Vero? Sì, sì. Anche quello è... è bellissimo. Una mattina vado lì con i miei sacchi gialli, con i CD, da spedire. Ecco, io ricordo sempre, appunto, agli ascoltatori, se c'è la possibilità, se volete comprare un disco, avete la possibilità di comprarlo direttamente dal musicista, è sempre l'opzione da scegliere, perché si bypassano, diciamo, delle spese e il musicista ha una retribuzione migliore. Però ecco, la mia osservazione è che se sei riuscita a vendere 1000 copie così, il potenziale commerciale è sicuramente molto superiore. Sì, insomma, cioè, le vendite dei dischi in Italia in questo momento sono tali che c'è della gente che è, diciamo, fra virgolette famosa, e che non fa che non riesce a vendere 1000 copie del disco, perché magari sono sui giornali con la nuova fidanzata, vero, vero, o cose del genere, ma poi quando si va a vedere cosa vendono realmente. La cosa che mi ha fatto molto molto piacere è stato che all'inizio, sai, una volta sì, vabbè, gli amici se lo comprano, gli amici si comprano il disco, quindi una volta che hai finito gli amici, poi sei lì che veramente vedi se va avanti o meno. E mi rendo conto che dopo anche le recensioni del Buscadero, di Mescalina, di Rumore, che io ho mandato i CD e gli è piaciuto e hanno recensito anche Mariluzzato Fegis, così sono venute delle cose proprio da persone mai viste, conosciute, estranee totalmente. Quindi è lì che ho detto: oh, ma sai che forse è bello sto disco? Nel senso, cioè, per le persone, io l'adoro, però, sì, capito come? Finiti gli amici, ho visto negozi in tutta Italia che mi chiedevano di avere i dischi perché arrivava dentro gente che chiedeva il disco. Quindi sì, sì, sono veramente orgogliosa di questa cosa qua, sì. Sono contenta. Ne hai ben donde, diciamo. Allora, adesso ci canti un'altra canzone dal disco, giusto? Sì, che sì. Si intitola? You Know. You Know. Allora, ci ascoltiamo dal vivo, You Know, da Arianna Antinori. You know I got to believe, say my name. You know I got to believe. You know I got to buy your playing a fool, playing a fool. You know I got to believe. You know I got to believe. You know I got to buy your playing a fool. Herb erano Giovanni, Davide, Chiara e naturalmente Arianna qui nel nostro grazie. Studio. Un sabba questo pezzo. Veramente trascinantissimo. Beat me like a drum. C'è questa frase un po' menami con un tamburo. Sì. Come gli è venuto in mente? Ma che ne so, questo è stato Marco Fasolo che ha fatto, ha avuto questo, questa idea così di mettere una canzone caliente nel caliente. Disco. Perché se fai caso, tutte le canzoni hanno un proprio un'anima. Perché sono voluto mettere Arianna Antinori? Perché sono tutte diverse come me. Cioè, c'è la parte riflessiva, c'è la parte un po' meno. La parte riflessiva un po' la nascondi, devo dire. Però se ascolti The River's End capisci. Sì, no, beh, sì, quello sì, no, dicevo come persona, hai, sì, mi dai l'impressione, no, di una che si butta. Sempre. Infatti però... il discorso prima appunto del concerto salendo sul palco con una band leggendaria, sì, sì, senza provare prima, è una cosa tipo appunto... O sei matto o se no quelli che si tuffano in area Hawaii là, sì, da 50 sì, sì, metri sperando che l'onda sia quella buona. E adesso c'è l'ultimo brano estratto dall'album, poi in chiusura avremo un altro pezzo dal vivo. È un pezzo che a me piace moltissimo, Our Days. Secondo me, almeno a me, è secondo me è il pezzo più bello del disco, è quello che mi piace di più, anche perché mi ricorda un po' come atmosfere Since I've Been Loving You delle Zeppelin, cioè quel tipo di struttura del brano, sì, non è che ci assomigli in realtà musicalmente, ma è un po' il concetto di canzone molto dilatata. E eravate partiti con questo obiettivo in testa, perché vocalmente anche mi sembra un pezzo dove canti in maniera diversa rispetto ad altri brani del disco. Sì, allora questo qui è sempre di Manuele De Pretto ed è nato come una ballad molto lenta. Però poi quando l'abbiamo ripresa in mano è proprio voluta, cioè non so, una preghiera, ok? Mm. E quando chiedi, che proprio sei lì che preghi, però allo stesso tempo sei anche poi dopo che questa preghiera ti è stata esaudita. Sì, allora ritorni un attimino, poi dopo però richiedi ancora e poi però... Ecco, questa cosa qua è stata creata così, ma la canzone è nata... Sì, non lo so, comunque ha avuto dall'inizio del provino quest'aria molto Led Zeppeliniana, molto strana, proprio fantastica come un po'. Un po' lisergica, diciamo, sì, un po' sognante. Sì, sì, come... sì, sì, sì. Bene, allora ce l'ascoltiamo, questa è Our Days. Fragile for us. Oh, we do so much without looking at what we're really doing. We do so much and barely go so deep as we should. The sunshine at the midnight. Now that you're taste, listen to the sky. You have to know, you have to know, I got new, you have to know, where is the sunshine? Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora un messaggio lungo, dice Arianna: con la sua carica ha unito persone nell'amicizia sparse per le diverse città. Ora questa canzone, la canzone precedente, è il nostro portafortuna per sentirci vicini e trovare sempre nuovi amici. Stupenda Arianna, i Tatables. E poi ancora Bobby Rai dice: sto seguendo la vostra diretta, mi state facendo morire di invidia, mi viene da piangere, accidenti, dice. Ma insomma, io speravo che la gente fosse contenta, no? A piangere. Grande Bobby. Allora, siamo quasi alla fine di questo appuntamento con Arianna Antinori, lungamente atteso perché, come ho detto prima, Arianna è impegnatissima, meritevolmente e fortunatamente. Poi appunto ha anche dovuto fare delle prove, qualcosa per questa nuova veste acustica che ci ha presentato qui. Magari la prossima volta vediamo, vi potete portare due chitarre elettriche, vediamo di distruggere definitivamente lo studio. Bello, sì. ci proviamo. Allora, facciamo un po' un riassuntino per chi si fosse messo in ascolto solo alla fine. Ricordo che la trasmissione, come tutti i nostri live, sarà poi disponibile sul nostro sito in podcast fra qualche giorno, insomma, il tempo che i tecnici la mettano a punto e preparino il file. E, Arianna, tu usi molto Facebook, hai, sì. hai anche il sito, naturalmente. Lo sto facendo. Sì, Ok, intanto appunto chi volesse seguire anche i suoi appuntamenti live sulla sua pagina Facebook, vedo che li aggiorni con una certa regolarità. Sì. Tenete d'occhio, insomma, se siete in Veneto, la possibilità che ve la troviate a suonare vicino a casa nei prossimi 2 o 3 mesi è molto elevata. Sì. A meno che uno non abiti in qualche rifugio, una maglia delle Dolomiti. Arriverai anche lì. Così no, sarebbe bellissimo. Ti sentono anche maga, più da c'è una manifestazione in Trentino dove fanno dei concerti a 2000 metri d'altezza, si bisogna andare su a piedi. Ah certo, sì, dopo... Dopo sì. Io non so come si fa a cantare a 2000 metri d'altezza, soprattutto se si canta come fai tu, ma... vabbè, però esiste questa possibilità, quindi te la segnalo, ecco. No, comunque lei, appunto, tu suonerai in un sacco di manifestazioni locali, festival, sì. Insomma... un po' dappertutto, quindi tenete gli occhi aperti e vedrete che avrete modo di vedere dal vivo Arianna con una delle sue 15 band. I Turtle Blues sono, diciamo, quelli... I Turtle Blues, sì, è la mia band, proprio sono che mi hanno dato, cioè che siamo nati. Mm-hmm. Sì, sì. Poi c'è il Arianna and the Davids, che è l'acustico. Poi altre sezioni di acustici come Marco Pandolfi anche all'armonica, Giovanni De Roit la chitarra, e poi il super Arianna Tinori, sì, The Big Band. Arianna Tinori Band, quella, vabbè, se, speriamo ci sia qualche occasione di... Sì. Di vederti anche con quella. Sì. Bene, e noi chiudiamo sempre con un pezzo dal vivo, i nostri appuntamenti live, quindi adesso Arianna ci canterà, i musicisti sono andati via perché non le servono. Gli avevo detto che li faccio parlare, fine. E sono scappati, sono subito. Scappati. Ha detto, adesso vi faccio parlare, e sono sì. Spariti via. Con una velocità... no, questa canzone è un brano che anche nella versione originale non aveva strumenti, quindi insomma è una versione fedele all'originale, ed è il brano con... Puoi raccontare un po' la storia del video che hai fatto di questo pezzo? Sì, questo qui è Mercedes-Benz, la canzone a cappella di Janis, che nel 2010 la famiglia di Janis ha indetto un concorso via web, e appunto che diceva ogni cantante di mettere su questo sito Cheap Thrills You Spirit by Janis Joplin, che era questo il titolo del concorso, il proprio video, e anch'io ho messo il mio e ho vinto. Diciamolo. Sì, quanti sì. Erano le partecipanti? Guarda, sinceramente non so il numero preciso, però da tutto il mondo, quindi c'erano cinesi, americane, hawaiane, tedesche, francesi, non lo so, ma saranno state tante. Sì. Ma sono ancora tutti online, perché io di sentire una cinese che canta Mercedes Benz, ma sai quanti ce ne sono curioso. Invece? Sì, sì, no, ci sono. E comunque, almeno, insomma, come capita qualche volta anche nel calcio, l'Italia ha sbaragliato la concorrenza, la nostra rappresentante ci ha portato a casa la coppa, diciamo. Sì, è vero, è stato bellissimo. E allora con Mercedes-Benz chiudiamo questo appuntamento con Arianna Antinori. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo Arianna e i suoi musicisti, ringrazio anche Agostino per la regia, naturalmente, e speriamo di riaverti nostra ospite in futuro. Ah, sarà un piacere, ragazzi, grazie mille dell'ospitalità. Sei Agostino, sempre la benvenuta. Grazie, Stefano, tutti quanti, anche al grande Gigi che è qui questa sera. Supporto morale. Sì, grande. Bene, allora, buonanotte a tutti e grazie da Stefano Dainese, vi lascio con Arianna Antinori. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I've must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work all of my lifetime, no help from my friend. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Grazie, Blu Radio Veneto. Ciao ragazzi.